Già Erdogan ha chiamato elezioni anticipate, infatti si è votato in Turchia 1 anno e mezzo prima rispetto alla scadenza naturale del mandato, quindi evidentemente aveva bisogno di galvanizzare i suoi sostenitori e poi ha avuto la grande intuizione di presentarsi a questo voto in alleanza con i nazionalisti, quindi ha chiuso il primo turno superandolo al 52,5%, quindi è di nuovo presidente. Dall'altra parte il suo oppositore, Muharrem Ince, un professore che si era candidato con il CHP, cioè con il Partito Repubblicano, si è fermato al 30,7%. Lui aveva fatto molto sperare per le opposizioni perché ha potuto godere di un sostegno più ampio rispetto a Kılıçdaroğlu, che era il suo predecessore, un anziano leader di CHP, e quindi si sperava che Ince ottenesse qualcosa di più, ma in realtà si è fermato a questa percentuale. Il grande successo di queste elezioni, da una parte, è l'affluenza straordinaria che si è registrata oltre l'87%, quindi vuol dire che i turchi si sono mobilitati in massa per andare a votare, e questo è un buon segno, ma dall'altra parte è anche un segno di forte sostegno a Erdogan. Dall'altra parte c'è il successo della sinistra filocurda. Il Partito Democratico dei Popoli, HDP, ha ottenuto l'11,6% dei voti, quindi è entrato di nuovo in Parlamento. Ricordiamo che questo partito di sinistra, vicino ai curdi, ma vicino anche ai lavoratori, ai giovani, eccetera, era entrato in Parlamento per la prima volta nel giugno 2015 e poi questo ingresso era stato confermato nel novembre dello stesso anno. Quindi evidentemente ormai questa sinistra turca vicina ai curdi è una certezza, nonostante la grande repressione che sta subendo, perché ricordiamo che in campagna elettorale il leader di questo partito, Selahattin Demirtas, è stato costretto a mandare i video, a partecipare alla campagna elettorale dal carcere perché è stato imprigionato con l'accusa di sostegno al terrorismo. Evidentemente non solo questo, tanti parlamentari di HDP non hanno più l'immunità parlamentare, tanti di loro sono stati arrestati, alcuni non sono ritornati in Turchia con il timore di essere arrestati. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte ad un grande successo per questo partito. Purtroppo le operazioni di voto si sono svolte in un contesto molto incerto, con gravi episodi di intimidazione che sono stati segnalati dagli osservatori internazionali che erano presenti soprattutto nelle regioni del sud-est, cioè nelle regioni del Kurdistan turco. È stato un caso molto grave di un morto che si è registrato a Erzurum. Si tratta di Mehmet Siddik Durmaz, che è il leader del Partito del Bene, che è stato guidato da Meral Akşener, e anche lei si pensava, quindi anche qui stiamo parlando di un partito di destra, centrodestra, però un partito laico, si pensava che potesse ottenere un successo superiore rispetto alla percentuale che ha ottenuto, intorno al 9-10%. Ci sono stati casi di stranieri arrestati, sono stati arrestati 10 stranieri, tra questi 4 erano italiani. L'accusa che è stata mossa contro questi stranieri, poi tra l'altro sono stati rilasciati, ma è stato aperto un file, un processo, una cartella su di loro, è di interferire nelle operazioni elettorali, probabilmente erano osservatori che si trovavano nei seggi senza avere un permesso ufficiale. Quindi per questo sono stati fermati. Ci sono stati casi di violenza in tanti seggi, addirittura alcuni osservatori hanno segnalato milizie che prendevano i documenti, le schede elettorali degli elettori curdi e votavano al loro posto con l'esercito e la polizia che li lasciava fare senza intervenire. Prima del voto 200.000 elettori curdi hanno visto spostato il luogo del loro seggio in un altro luogo all'ultimo momento, quindi questo non ha facilitato la loro partecipazione al voto. Una delle cose, degli elementi che ha segnato questa campagna elettorale era la grave crisi economica che sta attanagliando il paese, in particolare in conseguenza della svalutazione della lira turca, che ha portato chiaramente ad un aumento dei prezzi incontrollato, e quindi questo aveva determinato un forte malcontento popolare. Anche per questo Erdogan aveva deciso di andare ad elezioni anticipate, anche grazie al fatto che dopo aver vinto il referendum costituzionale ora lui ha poteri illimitati, ha il controllo dell'esecutivo e potrà fare un po' tutto quello che vuole, e quindi è veramente una nuova pagina per questo sultano che prende il potere in Turchia. Però dall'altra parte ha segnato queste elezioni il nuovo ruolo che ha assunto la banca centrale turca, che finalmente è intervenuta per fermare questa inflazione galoppante, tant'è vero anche dopo l'annuncio delle elezioni, il rialzo dei tassi di interesse, quindi tutto quello che è successo alla vigilia del voto, la lira turca sta recuperando, quindi si pensa che questa mossa di Erdogan possa avere un effetto positivo sull'inflazione e quindi in qualche maniera soddisfare le richieste degli investitori internazionali. Però evidentemente a questo fa da contrastare i forti limiti limiti che sono stati imposti alla società civile turca, ai partiti di opposizione, in particolare al partito curdo, e in generale all'aspirazione di una Turchia più secolare, più democratica. Erdogan prima delle elezioni ha detto che se avesse vinto avrebbe revocato lo stato di emergenza, lo farà? In verità anche il suo oppositore Muharrem Ince aveva detto che avrebbe revocato lo stato di emergenza. È stato lo stesso Erdogan a provocare questa condizione, questa necessità di avere uno stato di emergenza. Ricordiamo che lui è impegnato sul fronte del Kurdistan siriano, in particolare impegnato nella città di Afrine, dove ha attaccato i curdi siriani e le unità di protezione maschile e femminili da gennaio a marzo, provocando centinaia di morti, sottraendo ai curdi siriani la città di Afrine, che è controllata adesso dai turchi. Dall'altra parte è impegnata direttamente ad evitare che il Kurdistan siriano diventi una regione che abbia continuità territoriale, quindi ad impedire che Rojava diventi un concreto esempio di autonomia seguendo le idee di Öcalan. Non solo è impegnato in una lotta a tutto campo contro i curdi all'interno del paese, in particolare nelle città curde. Tutto il Kurdistan turco è in stato di assedio dal 2015, cioè da quando è entrato in Parlamento, in generale da quando c'è questo timore da parte delle autorità turche di un rafforzamento dell'esperimento del Kurdistan siriano e di Rojava. Quindi evidentemente questo stato di emergenza va avanti ormai da anni, e dall'altra parte c'è stata sempre la questione degli attentati di ISIS, che sono stati gravissimi in tutto il paese, di questa strategia della tensione che ha portato un veramente continuo stato di malessere e decine e decine di morti. Quindi evidentemente prima di arrivare alla cancellazione saranno necessarie tante delle valutazioni molto specifiche, e non è detto che lo faccia, però in realtà lui adesso dovrà dare dei segnali forti, perché ha ottenuto questo successo in seguito alle purghe che aveva predisposto dopo il fallito colpo di stato militare del 15 luglio del 2016, che erano costate la testa di migliaia di poliziotti, giudici, ma anche di gente comune, ricercatori, docenti, che erano stati accusati di averlo sostenuto. C'è una sorta di stato di eccezione in Turchia in questo momento, legata alle mire di controllo su tutti i centri di poteri del paese da parte del presidente Erdogan. È evidentemente lì il centro, il punto centrale per ripartire, anche per costruire una opposizione seria. Ricordiamo per esempio una delle figure che è in carcere, che è Taner Kilic, che è il direttore di Amnesty International in Turchia, e lui ha chiesto dal carcere durante la campagna elettorale di vigilare sulle violazioni dei diritti umani che costantemente colpiscono il paese. Ricordiamo una tra tutte: le centinaia di docenti che sono stati costretti a lasciare il paese oppure che sono stati espulsi soltanto perché hanno firmato una petizione contro le purghe di Erdogan negli anni passati. Già il fatto che il direttore di Amnesty International debba fare le sue dichiarazioni dal carcere mostra, e anche lui ha le stesse accuse di Demirtas, cioè di sostegno a organizzazioni terroristiche, è già significativo del stato grave in cui i diritti umani, ma più in generale la stampa e la società civile turca, versa in seguito a questo rafforzamento senza precedenti della leadership di Erdogan.